Manila, con quel dolce tuo viso. Dalila, i tuoi occhi aperti alla vita. Dalila, come un fiore in primavera. Dalila, sei arrivata dal cielo. Dalila, il tuo nome è una favola. Dalila, sei sempre nel mio cuore. Dalila, un coro d'angeli. Dalila, canteranno per te. Tu sei il mio angelo e giorno e notte penso a te. Vorrei tenerti vicino a me e stringerti forte sul mio cuore. Dalila, sei la luce del domani. Dalila, un giorno cambierà. Dalila, aspetta il mio ritorno. Dalila, questo treno sta arrivando. Dalila, sei come una farfalla. Dalila, il mondo è nelle tue mani. Dalila, sei il bene più grande per noi. Dalila, no, non devi piangere. Tu sei il mio angelo e giorno e notte penso a te. Vorrei tenerti vicino a me e stringerti forte sul mio cuore.